for hell is yellow and bluish and edged with purple. A liquor comes down, but smelly and oily and rust toward my cheek. When it comes above my upper lip, I will test it, putting out the tip of my tongue. When it comes right into my mouth, I will drink it, thinking that I'm drinking off my brain. Then I laugh. Above my upper lip, I will test it, putting out the tip of my tongue. When it comes right into my... sono i nipoti del faraone e ci hanno preso di sorpresa i nipoti del faraone, perché erano dei birbaccioni. E lo sapevamo anche, perché l'avevamo sentito due volte. In realtà conosciamo anche bloccano il pezzo proprio in questa maniera veramente allucinante. Assurda, con tra l'altro rumoracci di tutti i tipi dentro le loro scomposizioni, perché sono veramente delle cose scomposte e folli. Last Tracks è il titolo di appunto questo disco, che ha sempre suscitato una certa ilarità, proprio perché non si è mai capito quanto ci facessero i nipoti del faraone, quanto invece fossero veramente folli. Avete sentito una sorta di recitazione veramente dell'assurdo, questo osso qua con la droga, non si capisce bene dove diavolo vada a parare, cosa voluta sicuramente dai nipoti del faraone, che poi si trasformeranno in le forbici di Manitou. Banda poi, chiamiamola così, banda di sciagurati veramente, che si può intravedere dietro la figura di Vittorio Baroni, figura decisamente importante per la critica italiana negli anni Ottanta, e per io giovane adepto fedele tra virgolette dell'Industrial Music, leggevo appunto le recensioni, le uniche recensioni sull'Industrial Music proprio da parte di Vittorio Baroni su cos'era all'epoca Rockerilla, così ci diamo proprio dei vecchi, degli antichi, dei reduci, eccetera eccetera. E Vittorio Baroni, che si nascondeva un po' dietro la progettualità Nipoti del Faraone, Forbici di Manitou, che magari metteremo, altrettanto folli. E Vittorio Baroni adorava sia l'industrial music inglese, di taglio anche decisamente power electronics, o verso più forme di contemporanei, quindi Zovet Friends, Affair Trio, molto variegato quindi nei suoi ascolti, come poi si sente anche questo progetto assolutamente pazzoide. E oltre questo grande amore, Vittorio Baroni è diventato anche, insomma, una figura di riferimento, forse più critica musicale che appunto musicale nel senso stretto della parola, perché ha fatto conoscere per la maggior parte i Residence in Italia, e i nipoti del faraone sentono molto l'influenza residenziana dentro Last Track, seppur attraversati da varie correnti che vanno dalle musiche così divertenti e assolutamente giocherellone, che forse fanno riferimento anche a una certa Europa della Rare Record, quindi tutta la faccenda di Chris Clutter, Post, Harry Cole, Sle Peppy, quindi questo miscuglio strano tra teatralità, assurdismo e musiche sconfinate, e anche appunto rumorismi che sono più di chiara ascendenza residenziana. e una voglia appunto di andare oltre il seminato per creare scompiglio in quegli anni Ottanta, così perfettamente estetici e perfettamente alla moda, invece crea una sorta di screzio, di graffio sonoro, e anche per questo destano anche un po' di polemica, ma molto così sotterranea, molto underground, come d'altronde la maggior parte delle formazioni che stiamo mettendo questa sera. Seppur, posso dirla sta cosa, in Body Section, prego. Grazie, come sei gentile, in Body Section c'è anche un gruppo che poi è diventato molto famoso, proprio per fare anche un discorsetto che prima accennava appunto Eliseo, cioè quello che poi molti si sono dati alla dance, lo accennavo all'inizio della trasmissione io, lui accennava alla faccenda che poi molti si sono dati alla munnezza, gli stessi che magari alcuni degli stessi che stasera stiamo mettendo hanno dato vita a forme musicali decisamente commerciali, vendendo e vendendosi in maniera conclamata. In Body Section infatti c'erano un certo gruppo, se non ricordo male si chiama Litfiba, purtroppo se... ci sono i Litfiba, ancora un pezzo neanche male, anzi Franser ma decisamente all'inizio avanzato. Della loro esperienza non è che facessero cose munezzare, dopo insomma è successo di tutto e di più, ecco, non come dire, sopravvivere agli anni Ottanta. E un'altra formazione che c'era dentro Body Section, che andiamo adesso a presentare, formazione anch'essa fiorentina, sono i Neon, nati nel 1979, composti da Marcello Michelotti, Piero Balleggi, Nardo Lunardi e Leo Martera, che costituivano questa formazione comunque legata alla wave, con forti influenze elettroniche e con ovviamente alcuni elementi dark che emergevano all'interno della loro scena. Una formazione che è partita nel 79, è andata avanti con vari dischi, EP, 12 pollici per molti anni, e continuano poi comunque a produrre, tant'è che nel 2008 è uscito un ultimo disco, un album sempre appunto dei Neon, oltre che varie compilazioni delle esperienze passate. C'è stato un buco tra la fine degli 80 e un ritorno nel 2005, che poi va dentro anche tutto un ritorno che è avvenuto in questi ultimi anni rispetto a una scena anni 80 soprattutto italiana, come è successo poi negli anni 90, che molte formazioni degli anni 70 furono recuperate con delle reunion a dir poco allucinanti e inquietanti con formazioni improponibili che si rimisero a fare delle cose terribili. Soprattutto la scena, parlo soprattutto di quella progressive o jazz rock che ebbe tra il 95, 96, 97 un ritorno in pompa magna, con risultati a dir poco sconcertanti e anche scarsi commercialmente, tra e l'altro. Anche scarsi commercialmente. Mi ricordo un episodio ad esempio di un brano che fu pompato della PFM, lavò su Stratos, su una Maggia Stratos, su una cosa veramente ignobile. Credo che anche lo stesso Stratos si sia andato in rivolta. Guarda, meno male che sono morto, non lo so, perché è veramente, veramente triste. Ma purtroppo queste cose fanno parte del meccanismo della grande macchina del consumo commerciale dell'industria discografica. Il disco in particolare che andiamo ad ascoltare è Oscillator, che poi riprende un concerto del 79, quindi il primissimo periodo dei Neon, un periodo molto vicino all'industria, se dopo diventeranno un gruppo di punta del dark all'inizio erano più industriali. E qui infatti l'ultimo disco uscito proprio nel 2008 in realtà è appunto un recupero del concerto fatto proprio a Firenze, a un club di Firenze nell'inverno del 1979. Ce l'andiamo a sentire dunque, Neon da Oscillator. The people Molto bella questa parte, costruita praticamente su synth. Sam, cosa fai? Giochini? Faccio giochini. Fai sì. Giochini. Suoni sicuramente molto cupi, ma molto bello il modo in cui lavorano sul sintetizzatore, sui sintetizzatori, i Neon, proprio con questo crescendo, con questa apertura, con questa sorta di loop di suono che però nello stesso tempo si apre e crea appunto vari spiragli molto molto personali, anche si caratterizzavano, molti lo dicevano, anche per una originalità sicuramente molto marcata nella scena wave ed elettronica di questo periodo, molto sicuramente più industriale di quanto furono successivamente nel percorso musicale. Qua si sentiva proprio che erano gli albori, con un fortissima influenza del dello stile e della dimensione industriale rispetto a quello che poi avrebbero portato avanti, molto più legati al dark, un'elettronica sicuramente differente. E dall'industriale iniziale, appunto primigenio dei non, dei neon, scusate, lapsus, anche non, anche no, è lapsus, dai neon andiamo invece a trovare un progetto e in particolar modo un personaggio che ha sicuramente segnato la storia della musica industriale italiana. Sì, direi che il lapsus ci sta proprio, sembra quasi un rimando questo lapsus, perché alla fine degli anni 70 si sviluppa già in maniera piuttosto chiara quello che poi è stato soprannominato scena industriale, anche per Monte Cazzazza, un performer americano che farà anche dischi con Robin Gristle, amici di Cabaret Voltaire, eccetera eccetera, quindi tutta quella scena tra Londra, Sheffield e anche certa America. L'altro giorno ci siamo visti quella meraviglia musicale che è Zev, un esempio, ma magari qualcheduno capiterà di passare anche a fianco John Duncan qua a Bologna, è anche lui uno storico della musica industrial americana, anche perché proprio sta qua, ecco, non perché ci passa, perché ci siete voi, insomma, sta proprio qua a Bologna Duncan. Nella fine degli anni 70, comunque ripercorrendo il nostro discorso, si sviluppa due correnti, se dovessimo parlare di Nouvelle Vague, facendo un rimando, se esisteva Jean-Luc Godard e François Truffaut, quindi un cinema più sperimentale e più decostruito, quello appunto di Godard, e se vogliamo quello di Truffaut più invece raffinato e anche più gustoso anche in termini pop, fateci passare insomma questa definizione. Sicuramente dentro l'industria, se Robin Gristle rappresentano una sorta veramente di infinito brutista e veramente dentro i tunnel più scuri e ammorbanti, Cabaret Voltaire rappresentano, se vogliamo insomma parlare di papà o di mamme, insomma, quindi TG e CV, quindi Robin Gristle e Cabaret Voltaire sono sicuramente tali. Cabaret Voltaire appunto rappresentano forse una dinamica più accessibile, anche qua fateci passare la faccenda. Dentro quindi la corrente Robin Gristle, quindi una sorta appunto di tuffo nella abiezione anche musicale, sicuramente sviluppano personaggi come Non, Bud Rice, e come White House, altra storica formazione. E White House non a caso avranno un connubio con il nostro storico prime mover, potremmo definirlo, dell'industrial appunto nostrano, Maurizio Bianchi, che inizia già nella fine degli anni 70, quindi proprio nell'attualità industriale, a collaborare appunto con White House come organization. E andiamo a prendere da Leibstandarte, eccolo, diciamolo bene in tedesco, SSMB, quindi c'è un giochino tra White House, riferimenti alle tattiche shock adoperate soprattutto da White House, ma anche da Maurizio Bianchi, che insomma in tematiche, se con chi la camera abbiamo accennato a tematiche piuttosto oscene, con Bianchi si va proprio nella devastazione totale, proprio le sinfonie del genocidio, come tra l'altro il suo primo disco. Si va veramente una sorta di negazione di tutto, un dada abbruttimento che porta veramente anche alle estreme conseguenze, tant'è che Bianchi poi darà un taglio netto intorno alla metà degli anni 80, diventerà testimone di Geova, proprio tagliando anche molto corto con quello che fu la sua militanza industrial, proprio perché insomma arrivati a un certo punto si trovano i muri, insomma, e Bianchi aveva spinto veramente fino a quel muro sonore, a quel muro anche di tattica, di strategia shock, che lo portò appunto a stampare anche cose decisamente forti, come quello che andiamo a trovare appunto adesso da questa collaborazione con White House come organization. Ripetiamo, Leibstandarte, SSMB. senza incrocio di cacchi, e fra le tante infatti si fare il corridor sull'Ur, un dritten Tafel des Ordens, das im Verhältnis Deutschland zu Polen eine Wendung eintritt, eine Änderung, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt. Ich bin dabei entschlossen, so lange zu kämpfen, wie denn weder die derzeitige polnische Regierung geneigt ist, diese Voraussetzung herzustellen, oder wie eine andere polnische Regierung das geneigt ist. Ich will von den deutschen Grenzen das Element der Unsicherheit, die Atmosphäre ewiger bürgerkriegsähnlicher Zustände entfernen. Ich will dafür sorgen, dass im Osten der Friede an der Grenze kein anderes, als wir ihn an unseren anderen Grenzen kennen. Ich will dabei die notwendigen Handlungen so vornehmen, dass sie nicht dem widersprechen, was ich Ihnen hier, meine Herren Abgeordneten, im Reichstag selbst als Vorschläge an die übrige Welt bekannt gab. Das heißt, ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meine Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. Wenn aber der Gegner daraus einen Treibbrief ablesen zu können glaubt, seinerseits mit umgekehrten Methoden kämpfen zu können, dann wird er eine Antwort erhalten, dass die Hörnung sicher ist. Heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch nicht bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz leicht gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Sie ist heute die best ausgerüstete und sie steht weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1915. Mein Vertrauen auf sie ist unerschütterlich. Wenn ich die Wehrmacht aufrief, dann bin ich nun vom deutschen Volk Opfer. Und wenn notwendig alle Opfer fordere, dann habe ich ein Recht dazu. Denn ich bin auch selbst heute genauso bereit, wie wir früher waren, jedes persönliche Opfer zu bringen. Ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber nur für Jahre freiwillig bereit war, jederzeit zu tun. Übernehmen. Mein ganzes Leben gehört von Götz ab erstreckt meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Angezogen, der mir einst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde ihn bis Ende nicht erleben. Sollte mir in diesem Kampf genommen etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Matthäus Rossi Göring. Sollte Matthäus Rossi Göring etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger Matthäus Rossi Hess. Sie würden diesen Dank als Führer genauso zu blinder Treu und gehörender Verbrechen sein wie mir. Sollte auch Partei Lust hätten, etwas zustoßen, werden durch Gesetz nunmehr den Senat berufen, der dann den Würdigsten, das heißt den Tapfersten, aus seiner Mitte wählen soll. Als Nationalsozialist und als deutscher Soldat gehe ich in diesen Kampf mit einem starken Herzen ein. Mein ganzes Leben war nichts anderes als ein einziger Kampf für mein Volk, für seine Wiederauferstehung, für Deutschland. Über diesen Kampf stand immer nur ein Bekenntnis des Glaubens an dieses Volk. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Wenn irgendjemand aber glaubt, dass wir vielleicht eine schwere Zeit entgegengehen, dann möchte ich ihn bitten zu bedenken, dass ein österreichischer König mit einem lächerlich kleinen Staat Koalition gegenübertrat und in drei Kämpfen bestand, weil er jenes gläubige, starke Herz besaß, was auch wir in dieser Zeit benötigen. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern. Ein November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. Aussprache als ich den Kampf um die Macht im Reich begann. Schamal sagt ich, wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not scheitern. Dann bleibt die Geist. Verweigerer des Dr. Fritz wird Ihnen jetzt ein Gesetz vorlegen, dessen Annahme ich in drei Lesungen zusammenfasse. Meine Abgeordneten, ich habe es gestattet, dass Sie die fehlenden Abgeordneten, die heute nicht hier unter uns weilen können, die Sitze eingenommen werden, von den politischen Trägern und ihren Vertretern. Kraft der Vollmacht, die als Präsident des Reichstages habe, erteile ich Ihnen die Genehmigung, an der Abstimmung teilzunehmen. Am Namen der Reichstagsfraktion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beantragt, wolle folgenden Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. Gesetz über die Wiedervereinigung der freien Stadt Danzig mit dem Deutschen Reich vom 1. Dezember 1939. Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1, das vom Staatsoberhaupt der Freien Stadt Danzig erlassene Staatsgesetz über die Wiedervereinigung Danzig mit dem Deutschen Reich wird hiermit Reichsgesetz. Es hat Folgen. Dieses Danziger Gesetz hat folgenden Wortlaut. Artikel 1, die Verfassung der Freien Stadt Danzig ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Artikel 2, alle gesetzgebende und vollziehende Gewalt ausschließlich vom Staatsoberhaupt ausgeübt. Artikel 3, die freie Stadt Danzig bildet mit sofortiger Wirkung mit ihrem Gebiet und ihrem Volk einen Bestandteil des Deutschen Reichs. Artikel 4, bis zur endgültigen Bestimmung über die Einführung des Deutschen Reichsrechts durch den Führer bleiben die gesamten gesetzlichen Bestimmungen außer der Verfassung, die in dem Augenblick des Erlassens dieses Staatsgrundgesetzes gelten, in Kraft. Danzig, den 1. Dezember 1939, also Boxer. Das Reichsgesetz wird fortsetzt. Gesetzentwurf Paragraph 2. Die Staatsangehörigen der bisherigen freien Stadt Danzig sind deutsche Staatsangehörige nach Maßgaben ihrer Vorschrift. Paragraph 3. Im Gebiet der bisherigen freien Stadt Danzig bleibt das bisher geltende Recht mit Ausnahme der Verfassung der Freien Stadt Danzig bis auf weiteres in Kraft. Paragraph 4. In der bisherigen Freien Stadt Danzig tritt am 1. Januar 1940 das gesamte Reichsrecht und preußische Landesrecht in Kraft. Der zuständige Reichsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern bestimmen, das Reichsrecht oder preußisches Landesrecht in der bisherigen Freien Stadt Danzig nicht oder zu einem Verlegungszeitpunkt oder mit besonderen Maßgaben in Kraft tritt. Eine solche Bestimmung bedarf der Bekanntmachung im Reichsgesetzblatt. Bis zum 31. Dezember 1939 kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen den zuständigen Reichsminister zum Reichsrecht und preußisches Landesrecht zur Verordnung einführen. Paragraph 5. Zentralstelle für die Wiedervereinigung Danzig zu dem Deutschen Reich ist der Reichsminister des Innern. Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Paragraph 6. Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1939 in Kraft. Berlin, den 1. Dezember 1939. Abgeordneten, wir lesen das Gesetz. Tattica shock assolutamente utilizzata da Maurizio Bianchi, che appunto Capisco che le tematiche siano piuttosto indigeribili, però era una contestazione dei segni che nasce anche parallelamente, anzi più che nascere si sviluppa nel punk, le famose svastiche di Sioux o di molti punk, anche dello stesso Sid Vicious, o appunto di formazioni che volevano far vedere la faccia sporca del capitalismo, della società borghese, e quindi facevano vedere quello che era inguardabile, una contestazione dei segni che andava a ferire quel corpo sociale che ancora viveva delle memorie appunto degli orrori nazifascisti, e che appunto come dire copriva l'intera faccenda, e quindi non entrava in una sorta appunto di riflessione di quello che era stato un momento piuttosto lungo anche del capitalismo, non soltanto poi tedesco e italiano, anche spagnolo, ma per certi versi si può parlare anche di fascismo giapponese, insomma una sorta di cancro che attraversa il mondo tra gli anni 20 fino agli anni 40, e anche appunto con delle appendici piuttosto dolorose per quanto riguarda la Spagna di Franco, e anche delle filiazioni che, se non si possono definire fasciste, siamo molto molto vicine, come appunto dittature sudamericane e anche asiatiche. Ma poi tutto il discorso insomma prende l'avvio appunto da Troming Risto, da Cabaret Voltaire, con filiazioni anche dentro White House, e a questo punto insomma, visto che ce l'abbiamo ancora in sottofondo, il muro che prima evocavamo appunto di Maurizio Bianchi, non soltanto quello sonoro ma anche quello estetico e etico per molti aspetti, appunto con una shock anche piuttosto violento che creavano sia i situazionismi di White House, l'Aibach and Company, come poi anche una parte, l'abbiamo anche analizzata questa sera, della wave più incattivita italiana che stiamo appunto trattando dentro questi esperimenti italiani negli 80, questa sera appunto dedicata alla wave, seppur appunto con questa coda decisamente industrial, quindi fuori anche dalla wave, talmente radical da essere appunto poi anche indigeribile per molto pubblico wave, sospetto e sospettiamo. Bene, siamo arrivati alla fine. Arrivati alla fine, dunque auguriamo una buona notte a tutti gli ascoltatori, e ovviamente vi aspettiamo sempre domenica prossima alle 23.35 con 451 frammenti sonori. Se volete 35, no? Sì, bravo, perché alla fine siamo nel 35. Ovviamente ricordiamo ancora il blog, se coloro che sono interessati vogliono andare a risentirsi le trasmissioni, tra cui anche questa, abbiamo iniziato oppure sentirla, a registrare, sottolineo, mi viene sempre da dire risentire perché parliamo in diretta. Comunque diciamo che abbiamo iniziato a registrare le puntate sul blog, dunque in podcast potrete utilizzare tranquillamente il formato per ascoltarle dal 25 ottobre fino ad oggi, e adesso in poi ovviamente continueremo a metterle dentro il blog. Il blog è, che poi è un no blog, 451 frammenti sonori tutto unito, 451 frammenti sonori punto noblogs.org. Sì, ringraziamo tra l'altro il nostro Albano. No blogs o no blog? No blog. Bravo. Dai, buonanotte caro. Sì, infatti auguriamo anche una buonanotte al nostro caro Lorenzo Albano, che ci sta dando una grossa mano a livello telematico. Il de... De che sì, come abbiamo chiamato il deformatore informatico. Buonanotte, ciao.